che va, combatti, combatti per la gloria. Combatti, combatti, combatti, va, combatti, combatti per la gloria, combatti per la gloria, combatti. Segui Marte e va, combatti, combatti per la gloria. Combatti, combatti e va, combatti, combatti e va. Lascia amor, combatti per la gloria. Combatti per la gloria, combatti, combatti, combatti per la gloria. Sull'oblio quei dì comparve, questo sol, questo sol è la memoria. Solo più che ti comparte questo sol è la memoria. Lascia amor, ti segui Marte e va, combatti, combatti per la gloria, combatti, combatti, combatti, va, combatti per la gloria, combatti per la gloria, combatti, combatti. Lascia amor e segui Marte e va, combatti, combatti per la gloria. Combatti, combatti, va, combatti, combatti, va. Lascia amor, combatti per la gloria. Combatti per la gloria, combatti, combatti, combatti per la gloria.